Ciao, ciao a tutti, tutti che siete in ascolto, ascoltatrici, ascoltatori. Benissimo, no, già sto migliorando, comincio ad alzare i cursori giusti, già un grande traguardo. Allora, già una breve intervista di Roberto l'avevamo sentita qualche tempo fa, realizzata dal buon Mastello, che salutiamo. Salutiamo, ovvio. Allora, no, ci ricordiamo, ricordiamo insomma ad ascoltatori ed ascoltatrici in quale occasione vi siete incontrati con Mastello, così andiamo a chiudere un po' il cerchio, no? Sì, anche se i miei anni comunque avanzano, la memoria, se non erro, è stata 2 anni fa per il concerto in Via Gola, in quel di Milano. Bellissima giornata che a quanto pare purtroppo dal prossimo anno non girano voci di corridoio che non si farà più, purtroppo. Eh sì, no, diciamo che le stesse voci di corridoio sono arrivate anche da queste parti. Pare che abbiano avuto problemi, insomma, con chi vive la strada, insomma, sì, lì, diciamo, insomma. Problemi di carattere generale. Però, insomma, non si lasciano scoraggiare. No, anzi. Cioè, si chiude una porta e si apre un portone. Esatto. Si chiude una strada, si apre uno stradone. Esatto. Va bene. Allora, vabbè, tutti i pazzi fanzine, attiva da quale anno? Dal 1986. Ok, cominciamo un po' a delineare e a raccontare ad ascoltatori e ad ascoltatrici cos'è tutti i pazzi, perché magari noi la conosciamo, però chi è all'ascolto, che cos'è tutti, certo, i pazzi? Tutti pazzi è una fanzine, una classica fanzine che si basa solo su elementi musicali, ovvero non ho mai trattato di politica né di argomenti fuori dalla musica, ma solo ed esclusivamente di supporto a gruppi underground, prettamente negli ultimi anni in campo hardcore punk. All'inizio diciamo che mischiavo un po' i miei generi, trattavo anche metal, qualcosina di rap, qualcosina di reggae. Però poi col passare degli anni mi sono incentrato sulla scena hardcore punk, anche perché è un dovere, c'è molta più fiducia, molto più accordo in questa, chiamiamola, grande famiglia. A me piace definirmi così, far parte di una grande famiglia, perché so che non siamo i soli, ragazzi, dai, siamo parecchi, siamo. Bene, ma allora torniamo proprio al primo numero di Tutti Pazzi. Cioè, com'è nata? Com'è nata? Da quale pensiero, insomma? Guarda, è nata per una, tra virgolette, cavolata, nel senso che un giorno siamo andati in un centro sociale, sto parlando dell'84-85, grazie all'intervento di Marco Balestrino dei Classe Criminale, che saluto, e ci aveva indicato questo concerto che mi ricordo. Suonavano Crashbox, 102 Truffe di Imperia e Maze di Milano al centro sociale Subbuglio di Alessandria. Allora noi impavidi siamo andati a questa serata, era per noi tutta una novità, il centro sociale, il punk con la cresta, il pogo, la musica feroce e tutto, e io veramente sono rimasto esterrefatto da quella serata. Poi, aggirandomi per il centro sociale, ho notato questo banchetto nascosto che veramente non lo guardava nessuno, e mi sono avvicinato e c'erano questi giornaletti fotocopiati malissimo, si leggevano male. Ho parlato un po' con il tipo che era dietro al banchetto e mi ha spiegato che erano appunto fanzine fatte da persone che amavano la musica. Il giorno dopo, col senno di poi, quando sono rientrato a casa, ho detto: no, la voglio fare anch'io, voglio anch'io fare una fanzine. Ma appunto, perché a me interessa proprio cercare di carpire la scintilla iniziale, no? Quindi tu sei entrato in questo centro sociale, sì, attirato dalla musica, dal tipo di situazione. Certo, per me era un po' una novità, perché già seguivamo un po' il genere, appunto, con Balestrino e altri savonesi più vecchi di noi, che comunque ci facevano ascoltare questo genere di musica. Poi, per caso, un pomeriggio io accendo la radio, perché all'epoca io ero dodicenne, accendo la radio e sento questo brano, che poi ho scoperto che era un brano degli Exploited dal vivo, e mi sono innamorato di questo frastuono, di queste cose, cioè c'era proprio qualcosa dentro questa musica che ho detto: non si capisce niente, ma a me piace, ci deve essere qualcosa sotto di più valido, anche perché poi era un brano dal vivo. Poi, se parliamo appunto di più di 30 anni fa, cioè l'audio era quello che era. Sì, sì, no, no, mi fa particolare, ovviamente, insomma, da insomma, stando qui a trasmettere da Radio Onda Rossa, mi fa piacere appunto che l'inizio di questo racconto va a toccare sempre un'esperienza nata radiofonicamente, no, da una radio. Certo. Poi, cioè, noi ancora adesso trasmettiamo punk hardcore con registrazioni live dove non si capisce niente, quindi la tradizione un po' è rimasta, no? Certo, certo. E quindi decidi di fare il primo. E quindi decido di fare il primo numero. Il primo numero che effettivamente non si chiamava ancora Tutti Pazzi, ma si chiamava Shrapnel, in onore a una trash band di miei amici savonesi che suonavano, e noi eravamo fan accaniti perché tutte le loro prove praticamente erano un nostro concerto. E quindi ci chiudevamo in questa stanzina in 15-20 persone. E scoppiavano dei poghi furiosi, e alla fine niente, era diventato il nostro punto di ritrovo. Comincio a fare questa fanzine, che erano giusto 6 o 7 paginette completamente scritte a mano, anche aiutato da altri miei amici, così, e abbiamo cominciato a regalarne qualche copia in centro per Savona, così, ma con scarsi risultati. Però io volevo qualcosa di più, nel senso, il mio sogno è sempre stato di fare un giornalino come sarebbe piaciuto a me. Cioè, se io dovevo andare in edicola e cercare un giornalino musicale, lo volevo improntato così, fatto in una determinata maniera. E quindi ho detto, vabbè, mi metto da solo a fare, ci provo con macchina da scrivere e tutto. Bisognava cercare un nome. Cerca, ricerca, poi all'epoca in negazione andavano alla grande, e innamorato appunto del brano Tutti Pazzi, io ho detto, Tutti Pazzi ci sta a pennello, perché penso che nella scena hardcore siano un po' tutti pazzi. Va bene, allora, niente, mai dato un po', hai lanciato un po' il là per il primo brano d'apertura, che non ci siamo preparati, però lo cerchiamo subito e state lì. Eh sì, insomma, il pezzo... Il pezzo che ha ispirato il nome della fanzine lo sentiamo già andare di sottofondo. Loro sono in negazione e questa è Tutti Pazzi. Allora, già direi che già da queste poche parole iniziali già abbiamo toccato alcuni argomenti interessanti. Allora, no, quindi tracciando un po' la genesi di Tutti Pazzi fanzine, abbiamo parlato di un inizio appunto ideale che è avvenuto in un centro sociale, no? Certo. Allora, mi chiedo quanto sia importante appunto oggi il luogo dove si vive il punk hardcore. Secondo te i centri sociali sono ancora un luogo riconosciuto dai punks come, non so, luogo dove appunto conoscere una modalità di vita differente, di produzione differente. Guarda, io devo dire che ho un mio parere tutto personale sui centri sociali, nel senso che io ho conosciuto il centro sociale con il punk hardcore, e per me il centro sociale deve rimanere di musica, di base musicale punk hardcore. Poi ovviamente col passare degli anni, vedi gli anni 90 con l'avvento delle posse e il grande movimento del reggae, diciamo che i centri sociali hanno un po' contribuito a far nascere tutte queste sottoculture underground, che ben vengano comunque, ma io sono del parere che comunque il centro sociale deve rimanere anche come filosofia di autogestione, di occupazione di un certo pensiero politico, deve rimanere in ambito hardcore punk. E purtroppo vedo che in Italia ce ne sono veramente pochi, a parte gli storici e qualche altro posto che nasce nuovo, però alla fine diciamo che i centri sociali, già organizzare concerti non è una cosa facile, è molto dispendioso, perché ne parlo appunto per esperienza personale. In più capisco che i vari centri sociali debbano trovare nuove forme di uscite per avere degli incassi, per sostenersi in qualche maniera, e quindi comunque benvengano altri generi, ma io sono di quell'idea lì, sono fermo. Ok, no, appunto nei ricordi insomma dell'intervista con Mastello, addirittura il luogo non c'era nel vostro incontro, no? Cioè, sì, era... esatto, non c'era, noi ci siamo trovati su un marciapiede durante un concerto appunto in questa edizione di Cuore in Gola a Milano, che non era un centro sociale, era comunemente detta Taz, e questa strada occupata per il pomeriggio dove si è svolto questo grandissimo concerto con 15 gruppi, centinaia di persone a vedere, è stato tutto molto bello, perché è stato tutto molto improvvisato, tutto molto fatto diciamo alla carlona, però è venuta una serata, anzi una giornata bellissima. Però magari sono appunto appuntamenti spot, esatto, dove c'è una forte aggregazione in quella giornata lì, o nel caso delle 5 giornate di Milano, appunto sono state 5 giornate in cui ci si è potuto incontrare ed aggregare. Però se questa sottocultura che è il punk hardcore non si ritrova in un luogo dove appunto puoi costruire una sperimentazione, certo, continuativa, dove puoi mettere in atto le tue idee, diciamo, perché sennò poi rimane tutto fino a se stesso, nel senso che da casa tutti sono capaci a fare qualcosa, e poi quando si passa veramente all'azione, che allora lì nascono le prime problematiche. Ok, allora tu da Savona, sì, ti sei trasferito a Milano. E cosa puoi dirci dei luoghi di Milano dove si suona punk hardcore? Beh, devo dire che a Milano, ma già quando la frequentavo io, che noi savonesi prendevamo il treno e andavamo su a Milano per vedere concerti, a Milano c'è sempre stata una grandissima scena. E posso dire come esperienza personale che magari ormai col passare degli anni le persone più anziane che magari prima organizzavano, chi ha messo sua famiglia, chi è partito per l'estero e vari grandi in generale, hanno un po' abbandonato il tutto. Per fortuna c'è questo gruppo di persone che credono veramente in quello che fanno, e oltre ad organizzare concerti fanno un sacco di altre cose, fanno, non so, scuola di italiano per gli stranieri, scuola di batteria, fanno un sacco di cose. Antifa Drummers, no? Antifa Drummers, esatto. E il tutto gratis, nel senso, senza spendere una lira. E ovviamente questo va a rendere ancora più, come si può dire, è solida la base di un concerto, perché con i soldi del concerto ci si riescono a pagare eventuali spese di luce o di attrezzature varie. E devo dire veramente un grande applauso a questi ragazzi di Milano che riescono a fare tutto ciò. Allora, invece mi dicevi prima, microfoni spenti, che Tutti Pazzi Fanzine a un certo punto della sua storia è stata anche insomma promotrice di concerti. Sì, esatto, con dei miei amici sempre di Savona, giusto per scherzo, un giorno organizzando un addio al celibato a un nostro carissimo amico che si stava sposando, abbiamo organizzato questo concerto. All'epoca chi è che aveva suonato? I Sadist. i Necrodet si erano appena sciolti, noi conoscendoli di persona, perché Savona e Genova sono sono personalmente molto contento che hai citato questi due gruppi, perché insomma vabbè, anche loro hanno fatto parte di una storia. Di un genere, di una storia, sì, e quindi abbiamo fatto questo concerto, ma giusto così per scherzo, ed è venuta una serata bellissima veramente, c'è stato un sacco di gente, anche perché Savona è stata forse un po' come tutte le città, un po' triste da quel lato lì, cioè sempre le solite cose, gente che partecipa alla movida, discoteche, eccetera, così. E da lì c'è stato un là. Allora abbiamo detto, col passare del tempo, ogni volta, perché non organizziamo qualcosa? Poi con i miei contatti della fanzine, che ne avevo e ne ho tuttora parecchi, abbiamo cominciato questa organizzazione di concerti che è durata per una decina di anni. No, diciamo, da quello che mi ha raccontato, diciamo, hai lanciato un altro là per un'altra riflessione, perché insomma, non a caso hai nominato i Sadist e i Necrodet, perché comunque il metal fino a qualche tempo fa girava, beh sì, forse prima della fase anni 90 che tu, che sì, tu dicevi, comunque era più collegato a un'attitudine, certo, do it yourself, certo, no? Certo, c'era molto underground, anzi devo dire che, visto che sono a Roma, io il primo demo in assoluto che ho ricevuto è stato di un gruppo romano, gli Astaroth. Grandi Astaroth, sì, che vestivano da antichi romani, no? Esatto, me lo ricordo, da gladiatore così. E io mi ricordo che avevo preso il numero su un HM, il primo numero di HM. Guardano, sì. E difatti avevo detto, chissà come si fanno a recuperare questi demo, perché parlando appunto con questo ragazzo che accennavo prima, del centro sociale, mi ha detto, no, tu scrivi i gruppi, loro ti mandano la cassetta e fai la recensione e fai l'intervista. Va bene, proviamo. Io sono andato a casa e ho detto, sì, ma chi scrivo io? Quindi, leggendo HM, ho colto l'occasione, avevo letto una recensione degli Astaroth, ho detto, no, mi potrebbero interessare. Gli ho scritto e con grande piacere mi hanno mandato la cassetta, mi hanno mandato. Allora, direi, cioè oserei dire, non a caso hai nominato anche HM, perché HM è un, diciamo, una rivista che usciva in edicola, sì, una rivista appunto proprio impaginata professionalmente, carta patinata e tutto quanto, però all'interno di HM, e forse era la parte che io leggevo, sì, io era la prima che leggevo, era la prima che leggevo anch'io, c'erano credo 8 pagine, no, sì, o 16 o qualcosa del genere, sì, era un comunque, inserto, comunque gran parte della rivista era una fanzine, sì, era dedicata al panorama underground italiano, e forse c'era anche qualcosa di estero, e non solo, c'era grande spazio proprio alle lettere dei kids dell'epoca, no? Era un momento appunto per conoscere. Sì. Io infatti mi sono sempre chiesto da che sono partite le lettere che erano apparse sul primo numero. Perché dissero, sì, infatti. Quello rimarrà un mistero. Mistero. Va bene. Allora, sì. Poi insomma, sempre parlando dei luoghi, no? Va bene, no, ne parleremo più tardi, torneremo a parlare dei luoghi. E nel frattempo Roberto ci ha portato questa sera una scaletta con cui intervalleremo queste chiacchiere. Vogliamo passare un primo brano? Sì, io ho fatto questa scaletta, ma proprio presa a casaccio, senza dare favori a nessuno. Partirei con, essendo ligure, con i grandissimi CGB, con questo pezzo di Disequilibrio Mentale dal loro disco Morte di un Microfono, col vecchio cantante Davide. Via! Allora, come tutto, insomma, si va a collegare pezzo dopo pezzo, storia dopo storia. Sì, la settimana scorsa abbiamo letto da questi microfoni il primo capitolo del libro scritto da Davide. Sarà che siamo inquieti? Vero? Bellissimo libro, oltretutto. Insomma, che dire, CGB. CGB, per me è uno dei migliori gruppi hardcore punk italiani, veramente, senza, sarà perché sono liguri e tutto, io li conosco da una vita, perché comunque la vicinanza tra Savona e Imperia è poca roba, e quindi noi frequentavamo spesso e volentieri il loro centro sociale, che adesso non esiste più. Grandi persone, come attitudine, come musica, come tutto, cioè hanno sempre puzzato di hardcore punk lontano un miglio, veramente, no? Io li ho sempre adorati, sempre, non ho altre parole da dire. No, e una parte di questo libro ha visto anche la tua collaborazione in qualche modo, no? Sì, perché una parte di questo libro ha avuto anche la mia collaborazione, a mia insaputa, perché poi comunque avendo ottimi rapporti con Davide, quando mi è stato recapitato a casa, sfogliandolo con piacere, ho visto che c'erano delle foto fatte da me durante la serata di 3 anni fa, forse, quando hanno suonato a Rude Club. Oltretutto c'è un video in rete che potete sciropparvelo tutto per intero, e da lì si vede la vera potenza dei CGB dal vivo, con ancora Davide alla voce. Bene, bene, no. Sì, no, io pure t'ho incontrato a Milano, eri sempre con la tua macchinetta a fare foto. Sempre. Cosa che fai costantemente. Ok, nella realizzazione di un numero di Tutti Pazzi, quanto è importante, cioè, uscire fisicamente e andare nei posti? Cioè, nel senso, da una parte immagino ci sia il frequentare appunto le situazioni, dall'altra ci sarà anche un lavoro di ricerca e di ascolto di musica fatto, insomma, privatamente a casa. Come... No, diciamo che è importante, innanzitutto è perché è importante partecipare comunque ai concerti, sia che si faccia una fanzine, anche solo come spettatore, è importantissimo. E poi per me è importante perché comunque conosco gente, vedo i gruppi suonare dal vivo, in maniera che quando si arriva al momento dell'intervista so di che cosa sto parlando, non sono davanti, oramai purtroppo si viaggia su Facebook, su internet, su questi social, che comunque è tutto molta apparenza, cioè non si sa di chi, con chi si parla dall'altra parte. Invece partecipando ai concerti si conoscono gente, si allacciano amicizie, si stringono contatti, e poi è giusto le persone che, cioè, si conoscano vis-à-vis, perché magari, tra virgolette, in tanti conoscono Tutti Pazzi, però, cioè, non sanno chi è Tutti Pazzi. Senti, ma immagino ci siano anche dei gruppi, insomma, che ti contattano invece non conoscendoti direttamente, no? Sì, tantissimi, perché oramai posso dire che col passare degli anni comunque la fanzine è conosciuta in Italia, e quindi vengo contattato da tantissimi gruppi. Anzi, io volevo lanciare un messaggio a tutti i gruppi, perché la fanzine comunque è tuttora esistente e io sto lavorando al numero nuovo, di contattarmi. Ho una pagina Facebook, Tutti Pazzi Roberto, poi dopo vi vedrò anche l'email, ma per favore non mandatemi i link degli MP3, perché veramente non è una cosa che non mi piace. Io ho notato che ultimamente ci sono gruppi e che mi contattano e mi dicono: sì, guarda, abbiamo 2 o 3 pezzi registrati, te li faccio sentire, va bene, ti do l'indirizzo di casa, mi mandi qualcosa. No, ti do il link dell'MP3, perché noi non abbiamo registrato niente. E così, sinceramente, a me non ce la fai. A me non piace, non ce la faccio, perché innanzitutto mi piace il contatto fisico del CD, mi piace ancora, io sono rimasto ancora un bambino di 12 anni, tutti i giorni andare nella cassetta della posta e sperare che ci sia un pacchettino per me. E anche dall'altro lato, sì, capisco la voglia di suonare, però anche l'impegno di registrare qualcosa a livello fisico, lo sbattimento di registrare, di fare una copertina, di spedire, di distribuire il proprio prodotto. È quello che mi piace, non è solo la musica, ci deve essere tutto un indotto intorno. Senti, ma appunto in questo frangente, no, dell'essere contattato da gruppi che chiedono, immagino, di un po' di visibilità oppure di apparire su Tutti Pazzi, ci sono stati dei gruppi assurdi che niente avevano a che fare con il do it yourself, che appunto ti hanno contattato? Sì, diciamo sì, io mi ricordo che anni fa mi avevano intervistato mi avevano contattato delle agenzie di Milano che producevano persone che facevano tutt'altro genere, così, e mi avevano offerto anche, non dico dei soldi, però un aiuto nella stampa della fanzine, della divulgazione, della promozione. No, io ho rifiutato, ma non tanto perché il genere non c'entrava con me, proprio perché per tutto il pensiero che c'era legato intorno, non faceva il caso mio. Bene, bene, bene, bene. Senti, vogliamo passare un altro brano? Sì, io direi, vediamo cosa possiamo far sentire agli ascoltatori. Andiamo con i Kalashnikov, una ottima band di Milano, Kalashnikov Collective. E adesso andiamo a sentire il brano Chi sta in alto dice queste guerre e queste pace, dal loro ultimo LP L'algebra morente del cielo. Buon ascolto a tutti. Va bene, va bene. Non vi diciamo di cosa stavamo parlando a microfoni spenti, però vabbè, questi sono i segreti della trasmissione che moriranno qui. Allora, Kalashnikov Collective. Ok. E vabbè, è sempre un piacere da questi microfoni passare i Kalashnikov, perché l'ultimo disco, insomma, ci fa sempre piacere ricordarlo, coprodotto anche da Radio Onda Rossa. Anche da me. Anche da te, vedi? Anche da me, sì. E insomma, le ultime due volte che sono venuti a suonare a Roma l'hanno fatto a sostegno della radio, quindi un abbraccio ai Kalashnikov. E qualcosa da aggiungere sui Kalashnikov Collective? Quello che ho detto prima, sono un grandissimo gruppo, sia musicalmente, perché propongono questo genere che chiamarli hardcore punk è un termine un po' restrittivo per loro. Secondo me riescono a spaziare in vari generi queste atmosfere, possiamo chiamarli post-industriali, questi ambienti catastrofici. Cioè, secondo me sono uno dei pochi gruppi in Italia che riescono a rendere l'idea dei loro testi. Io li ho visti ancora sabato scorso, che hanno suonato con altri gruppi di Milano, è stato un concertone. Sicuramente quando suonano loro la gente si muove parecchio sotto il palco. E poi un'altra cosa bellissima secondo me è che tutti sanno i loro pezzi. Cioè, veramente, questa è una cosa. Sì. La Valeria sabato secondo me ha cantato pochissimo. E oltretutto volevo aggiungere anche la cosa che se un giorno avrete la fortuna di avvicinarvi a un banchetto dei Kalashnikov e chiedete il prezzo, loro vi risponderanno con la semplice frase: dipende da te quanto che valore dai a questi oggetti, sia che sia un CD o una toppa o un disco. Allora, no, allora i Kalashnikov è un caso un po' musicalmente è un caso un po' a parte, sì, no? Esatto. Perché tu hai cercato di definire il loro suono. Sì, non è facile. Non è facile. C'è chi li ha un po' etichettati anche con un prog punk. Perché una, sì. una ci può trovare anche loro una. Si definiscono romantic punks. Romantic punks. Ok, e parlando dei gruppi che hai modo tu di vedere a Milano, ma in giro per l'Italia, a livello di suoni, allora il Kalashnikov, insomma, un bel esempio di sperimentazione, di mix di suoni diversi da epoche diverse, perché poi ci trovi dentro il post-punk, certo. Qualcosa di cantautorato italiano, certo. Anche vagamente, non so, aria, quel modo di scrivere, sì, no? Sì. E adesso nei gruppi che hai modo, insomma, di vedere nei tuoi vagabondaggi, trovi che ci sia sperimentazione oppure sia un sì, po' più dire sul che classico? Parlando sempre di una città come Milano, che io parlo di quella perché vivendola tutti i giorni, un altro grandissimo gruppo che io sono rimasto molto affascinato sono i Merkel Market, che sono quattro ragazzi che provengono dalla scena hardcore punk, però hanno deciso di ritrovarsi tutti insieme, di suonare, ma di non fare hardcore punk, e fanno questo genere, chiamiamolo post-hardcore, anche loro è molto difficile definire. La cosa curiosa è che non hanno chitarra, hanno un cantante, batteria e due bassi, e dal vivo rendono veramente, veramente grandi. Quindi poi invece ricordando un po' anche i gruppi passati, no? Se parliamo appunto dei Kina, sì. non erano un gruppo che prettamente faceva l'hardcore di matrice americana oppure UK 82, non seguivano un genere musicale, no? Sì, no, assolutamente. Ci trovavi dentro un cantautore d'italiano, certo. In mezzo qualche cavalcata metal anche, no? Un po' di folk, i Kina sono stati un grandissimo gruppo, ma non tanto per la musica che proponevano, ma quanto proprio per il discorso del do it yourself che hanno portato in Italia e forse in tutto il mondo. Cioè, voglio ricordare la loro etichetta discografica, la Blue Bus, che ci ha fatto scoprire un sacco di gruppi che forse se non c'erano i Kina non avremmo avuto possibilità di conoscerli. E poi anche col passare degli anni, e anche loro sempre con questa voglia di suonare in posti incredibili, macinarsi chilometri su furgoni sgangherati e via dicendo. No, mi interessa un po' questo discorso perché poi ci sono dei gruppi appunto che sembra che stiamo parlando sempre di musica, no? Però poi la musica non è così centrale né che definisce poi bene questo punk hardcore, diciamo che la musica, no? È un pretesto, via. E appunto forse cosa definisce come fai le cose, no? Cioè, no, sì. Noi tutti, però. Sì, sì, una domanda un po' complicata, nel senso. Vabbè, ma è la domanda che ci facciamo tutti, perché poi viviamo queste energie, ci diciamo sempre che non è solo musica, però poi andare a definire non è così semplice. No, un altro gruppo che mi viene in mente sono i Franti, ad esempio, okay, che non facevano punk hardcore, sì, certo, però certo. Erano ben inseriti in tutto quello, certo, che era il punk hardcore. ma anche se vogliamo tornare indietro nei tempi, gli Refuse It di Firenze, o anche, che ne so, sempre parlando del Granducato Hardcore, adesso mi vengono in mente perché ho appena finito di leggere il loro libro, la loro biografia, i CCM di Pisa, che anche loro non erano propriamente magari sul genere hardcore, però per i tempi e per il messaggio che portavano. Libro che è uscito adesso. Libro che è uscito adesso, che si chiama No More Pain, scritto dal loro bassista, che poi è diventato chitarrista, mi pare, Antonio Cecchi. Distribuito anche, visto che siamo a Roma, da Il Nation. Certo. Spero in questi giorni di andare a visitare, che non ho ancora visto. Va bene. Allora, io direi, insomma, li abbiamo nominati, come non passare china. Certo, vai, questi anni. Mientras vibra se me abusa. insomma, questi anni di china da se ho vinto, se ho perso. E... sempre da pelle d'oca questa canzone. Eh sì, sì. Eh sì, eh sì. Allora, no, vabbè, che dire dei china che non sia stato già detto. Hanno già detto tutto. Va bene, no, Sergio Milani che continua a scrivere nello stesso modo in una veste, i testi sono quelli, eh? Sì, i testi sono quelli, sono. Volevo ricordare che adesso appunto Sergio suona il banjo in questo nuovo gruppo che si chiamano Ombra, sempre valdostani. Si è messo, sono un gruppo di 5-6 persone con tanto di violino, batteria, basso. Oltretutto, se non erro, il loro batterista è stato il primissimo batterista dei china. Questo mi aveva detto Sergio tempo fa, ma proprio dei primordi. E niente, come genere propongono un folk irlandese con attitudini punk hardcore. Se vi capita, andatevi a vedere perché meritano. E hai avuto modo di vederli tu, certo, dal vivo? Sì, ha suonato l'anno scorso a Milano, infatti sono corso subito a vederli, oltretutto che a salutare Sergio, ed è stato un bel concerto, devo dire che ne vale la pena. Sì, ha cambiato genere musicale, anche perché se continuava a suonare la batteria era quello, quindi ha scelto insomma, esatto, di suonare un altro strumento, esatto. La voglia di suonare in giro non gli è passata, la voglia di scrivere non gli è passata, c'è sempre. No, bene, Sergio bene. È un grande. Vabbè, invitatele a suonare in giro perché sono ben volenterosi, certo, certo. Di girare, insomma. Certo. Bene, bene, bene. Allora. Tutti pazzi fanzin, siamo arrivati al numero 21. 21, sì, tu te lo ricordi o no? Cioè, me lo ricordo 21. Perché ce l'ho davanti, insomma, c'ho una copia davanti. Sì, siamo arrivati al numero 21. E sto lavorando, inizierò a lavorare al numero 22. Ok, quindi 22 numeri del 1986. Sì, se quindi... uno fa un po' di calcoli, c'è stato qualche anno di stop, dovuto più che altro a una mia demoralizzazione con l'avvento di internet, social network, mi era diciamo passata la voglia. Poi sono stato un po' all'estero per lavoro, varie vicissitudini. Però poi da qualche anno a questa parte mi è ritornato la voglia, forse sarà magari, non so, l'area di Milano che mi ha messo un po' di verve, però tutti pazzi è di nuovo lì ed esiste tuttora. Ma io credo poi, a parte tutti i pazzi fanzine, ci sono altre ottime fanzine in giro. Certo. Io credo che proprio, sai, appunto da... la tempesta di informazioni che riceviamo dai social, è tutto un gran marasma. Sì, poi sì, la necessità di avere qualcosa di fisico come punto di riferimento è un qualcosa di necessario. Come abbiamo iniziato, certo, come dicevamo prima, magari sui CD o MP3, quel discorso. Sì. O anche andare a ricercare HM perché c'era quell'inserto lì, insomma, no? È vero. Cercare un punto di riferimento. Con il marasma, appunto, che viene dai social, ti ritrovi con bersagliato da mille input di 10.000 gruppi, però poi rimani così, no? Sì. Quindi sì, vero, trovare una chiave di lettura di un autore che poi è uno di noi, insomma, no? Certo. Che può essere chi decide di essere autore, appunto, di una fanzine, o un qualcosa di fisicamente necessario, no? Certo. Io poi sono del parere che io faccio una fanzine dall'86, ma a parer mio, cioè, non è che faccio queste grandissime cose, sono una passione che mi coinvolge. Anzi, invito tutti gli ascoltatori a provare a fare una fanzine. Almeno provateci, ragazzi, fate un numero, basta. Però è una soddisfazione personale e anche vedere cosa c'è dietro lo sbattimento, tutto il lavoro enorme che c'è dietro. Perché a me per fare una fanzine ci vuole bene o male un anno, tra l'attesa della risposta dei gruppi, l'impaginare, il trovare il tempo libero, c'è un grandissimo lavoro dietro. Senti, ma sei anche lettore di altre fanzine che ci sono in giro? Certo, quando mi capita qualcosa io scambio volentieri con altre fanzine. Anzi, fino all'anno scorso c'erano delle notevoli fanzine in Italia, tipo siamo qua a Roma, la Disadattack di Valentino dei un Cenere. Saluto a Valentino. e GoFest dalla Sardegna, però a quanto pare hanno smesso per vari problemi e quindi ragazzi, cioè, mi avete lasciato da solo, mi avete lasciato. Non si fa così, eh? E c'è solo un'altra persona in Italia, Dario di Porro Zin, che vabbè, ogni, diciamo che è sempre in vita la fanzine, ne fa una ogni 3-4 anni. Oddio, la sua è molto bella, stampata, fatta in tipografia e tutto. E esce ogni morto di papa, visto che, cioè, poi siamo a due passi dal Vaticano, qua magari mi sento. No, no, vabbè, questi giorni parlando di morti, chissà che... Esatto. Vabbè. Non è ancora finito il 2016. Ok, senti, no, appunto, nella realizzazione pratica... cosa è cambiato dal 1986 nella realizzazione pratica di Tutti Pazzi? Nella realizzazione pratica è cambiato molto, nel senso che io fino a prima dell'avvento di internet passavo le mie giornate davanti a una pseudoscrivania contornato da migliaia di fogliettini che volavano, di flyer con le dita perennemente appiccicate con la colla. E forbici che non trovavo mai. Se lasciavi una finestra aperta ti eri perso un anno di lavoro. Era un casino, esatto. E sgrida da mia madre perché il casino regnava perenne, e mille viaggi nel negozio di fotocopie per trovare le misure giuste, era veramente uno sbattimento notevole. Adesso devo dire, ed era anche molto più lungo, nel senso, perché tu spedivi una lettera, dovevi aspettare la risposta, poi per non parlare di gruppi dell'estero che comunque, cioè io all'epoca contattavo anche, mi ricordo la scena death metal americana, aspettare che ti rispondessero l'America non era cosa semplice, scambiare dischi, comprare francobolli, tutto quello che c'era dietro. Ed era anche una cosa molto più dilatata nel tempo. Adesso la mia scrivania è pulitissima, c'è solo una tastiera con un monitor dove mi facilitano molto le cose. Io vabbè, non di grafica proprio zero, non sono assolutamente bravo, difatti la faccio con un programma proprio minimale, però a me mi basta quello, e la comunicazione è molto più veloce, nel senso che io ti faccio una risposta, cioè ti faccio un'intervista oggi, tu domani se hai tempo mi puoi già rispondere. Certo. A differenza di alcuni gruppi di cui non faccio il nome, che sto ancora aspettando le risposte. Che si ragazzi, lasciano, ecco, frecciatina. Frecciatina. Allora, senti, qualche... ci vuoi insomma raccontare qualche... Cioè, chi hai intervistato nel corso di... Oh, 30 anni? Sì, 30 anni, di tutto e di più. Guarda, adesso a ricordare... posso ricordare i grandi gruppi, vabbè, abbiamo parlato prima dei Kina, i Contropotere di Napoli... E... non mi ricordo veramente, a livello di metal i Carcass tantissimi anni fa, i Boltrauer, poi in camp hardcore i Peggio Punk, ma tantissimi, cioè adesso veramente ricordarseli tutti, io penso che tutti quelli che sono passati nella scena sono passati anche sulla fanzine. Nel piccolo, nel grande, io ho cercato sempre di dare spazio a tutti senza distinzioni. Ma chi volesse magari, cioè chi ha la curiosità di leggere qualche numero passato, come può fare? Allora, i numeri passati diciamo che non esistono più. Perché avevo questa cosa, io quando finivo un numero che lo portavo a fotocopiare, basta, io non lo volevo più vedere quel numero lì, quindi non esistono nemmeno più gli originali. Perché il punk è solo oggi. E il punk è solo oggi, esatto. C'è qualche mio amico oppure qualche fanatico sparso per l'Italia che ha ancora i numeri vecchi che io ancora devo trovare, e comunque, anzi, se c'è qualcuno che ha numeri vecchi si faccia sentire che mi potrebbero servire. E... quindi non tiene un archivio con... No, non è un archivio di nessun tipo. Giusto forse dagli ultimi numeri, dal 17, che oltretutto sono scaricabili su Punk for Free, a chi interessa, ma dei numeri precedenti non esiste l'ombra, proprio zero. Bene, bene, bene, quindi insomma affrettatevi a recuperare le copie di Tutti i Pazzi quando escono, perché insomma è l'unico modo per averle. Esatto, non si fanno ristampe, niente. Bene, bene, bene. Senti, passiamo un altro brano? Sì. Possiamo andarci a sentire gli Affluente? Benissimo, sì. L'Affluente sì. Con Libera Fame da Ascoli Piceno. Allora, anche gli affluenti in giro da qualche annetto, no? Sì, da tanti anni anche loro. Credo 20 anni più o meno. Due o tre anni fa forse hanno festeggiato i 20 anni. Esatto. Allora, perché hai scelto gli affluenti? Ho scelto gli affluenti perché secondo me incarnano la rabbia dell'hardcore punk, e poi con questi grandissimi testi, con quest'altro grandissimo cantante che era Carlo Cannella, che adesso si è trasferito all'estero, oltretutto autore di libri, anche lui si è dato la scrittura, però continuano, anche se sporadicamente, ad apparire su qualche palco italiano, e fa sempre un grandissimo piacere vederli, anche come persone loro ottime. Io lancio una volontà di vederli a Roma presto, insomma, vabbè, niente, no, era una richiesta, insomma, va bene. Vediamo, insomma, prossimamente se ci riusciamo ad averli. Però stavamo parlando anche di un altro gruppo, sì. Andiamo un po' veloci con la scaletta. E l'altro gruppo sono i Contropotere. Contropotere, che io devo dire che sono stati uno di quei gruppi che mi hanno segnato veramente dopo averli visti dal vivo, sentiti precedentemente su disco, però una cosa è sentire i gruppi su disco, un'altra vederli dal vivo, e devo dire che dal vivo erano anche loro, il termine hardcore punk li stava un po' strettino, perché erano molto sperimentali, poi si è visto anche col passare degli anni, gli ultimi dischi che giravano già un po' più sull'elettronica, su queste cose un po' particolari. Però i Contropotere li ho sempre visti come non tanto come un gruppo musicale, ma un collettivo che portava avanti delle idee. Proprio vedere queste persone che si autogestivano, si autoproducevano. Io poi ho avuto occasione di parlare con loro e c'è stata, non dico un'intervista, ma abbiamo parlato per 2 o 3 ore veramente di tutto meno che di musica. Io ho avuto modo di vederli nel 1993 in quel del Forte Prenestino. Non è stato solamente un concerto musicale, c'era una rappresentazione teatrale, certo. Con coreografie. Non si fermavano solamente comunicando attraverso la musica. No, eccezionale veramente. Bene, io insomma me li sentirei con piacere. Che pezzo hai scelto? Ho scelto Huragan, che magari non lo sentiamo tutto, certo, perché certo. È un po' lunghetto. Dall'LP, dal secondo LP, Nessuna Speranza, Nessuna Paura, forse. Seme della Devianza. Il Seme della Devianza, vedi? Ok, Contropotere. Hai più memoria di me. sangue sarà il mio sangue. We'll be right back. Allora, alla fine ce lo siamo sentito quasi tutto il pezzo dei Contropotere, manca pochissimo. Ok, va bene, sì, Contropotere. Poi vedi la bellezza della diretta che si fa confusione, cioè non si sa mai se le chiacchiere sono andate in diretta o sono quelle che abbiamo fatto a microfoni spenti. va bene, sì. No, vabbè, a microfoni spenti poi ci siamo dilungati in ricordi appunto sui Contropotere, su un po' di Amarcord e niente, va bene. Allora abbiamo parlato della realizzazione di Tutti i Pazzi, della sì. genesi di Tutti i Pazzi, sì. dei luoghi insomma dove si va ad attingere appunto nella realizzazione della fanzine. Non abbiamo parlato del pubblico. Del pubblico, allora, questa è una bella domanda. Sì, allora diciamo è interessante avere qui Roberto questa sera, perché comunque è un osservatore della scena da 30 anni. Come trovi il pubblico di oggi? Cioè pubblico. Nell'ambiente hardcore, dove insomma si tende sì. ad abbattere appunto la linea di confine tra chi suona e chi ti va a vedere, perché esatto, insomma esatto. È bello appunto proprio toccarci, esatto. Conoscersi, sentirsi, che non so come trovi come dire chi va a vedere i concerti al giorno d'oggi. Sì, diciamo che forse anni fa c'era più interesse, questo lo dico un po' tra virgolette, poi vabbè, io cresco con gli anni, magari vedo quello di oggi in confronto a quello di ieri con un'altra mentalità. Però devo dire che i concerti, torno a dire, la scena di Milano è sempre affollatissima. Qualsiasi gruppo suoni, sia dal più sconosciuto che a quello più conosciuto, anzi, forse è più facile vedere più gente ai gruppi sconosciuti che a quelli più famosi. E questo già è una nota positiva. Il pubblico che segue i concerti sono ragazzi molto giovani, che spero che frequentando certi posti, certe persone maturino bene con delle idee in testa che li portino dal pensare al fare in qualsiasi campo, non voglio solo parlare del punk hardcore. E ci sono anche degli anzianotti, come me, che magari preferiscono starsene seduti un po' in disparte a bersi una birra, anche se nel mio caso è sempre difficile, perché comunque io sono sempre in giro con la macchina fotografica e spesso e volentieri sono tornato a casa con dei gran lividi sulle gambe giusto per fare qualche foto. Appunto, sì, no, gente, cioè pischelli insomma interessati ancora, sì. frequentano i concerti punk hardcore, quindi certo. mi piace immaginare che ancora sia un genere, un tipo di attitudini, un tipo di situazione che viene riconosciuto a livello popolare, certo. Però quanti gruppi nuovi poi ci sono, insomma, c'è questa carenza di gruppi nuovi? Questo è un problema. Io basta pensare che io, quando, come ho detto prima, che per fare una fanzine bene o male ci vogliono quei 10-12 mesi, io tante volte intervisto un gruppo che arrivo all'uscita della fanzine che il gruppo non esiste più. Quindi forse è questo il bello e il brutto del punk hardcore, nel senso che si deve cogliere l'attimo di chi suona, di chi propone certe idee, perché poi magari fra un mese, per varie vicissitudini, non esistono più. Però non esiste più quel gruppo, ma le persone rimangono le stesse. Quindi quelle stesse persone che fino a un mese fa avevano un gruppo ben definito, con una copertina, un nome, un logo, e magari fra due mesi li troviamo in altri gruppi, con altri loghi, con altre copertine, oppure che ne so, li troviamo a svolgere altre attività sempre facenti parte della scena, chi fa una fanzine, chi occupa un posto, chi organizza concerti. Però appunto, cioè, come lanciavi tu l'invito prima, insomma, non lasciatemi da solo, fate anche voi, esatto, provate a fare una fanzine, esatto. Anche per quanto riguarda il suonare, insomma, il punk, non punk è che deve essere quello, non è che devi saper suonare, mettitici a suonare, magari viene fuori una cosa carina, perché tutti hanno iniziato così, no? No, no, certo. Allora, un certo progetto interessante che era, che l'abbiamo citato prima, Antifa Drummers, no? La decennale carenza di batteristi nella scena, sì, che sì, vero. Insomma, vabbè, c'è sempre il batterista che sa perlomeno un minimo suonare la batteria e c'ha minimo 6 gruppi. Ah, no, è vero. Quindi come è stato fatto questo? Cioè, perché, insomma, quando manca un qualcosa, auto-organizzatevi. Certo, che la cosa viene meglio, comunque. Se l'auto-organizzazione e l'autogestione è ben fatta, viene meglio con pochi soldi. Diciamo che purtroppo anche l'atto economico ci deve stare, certo, perché niente ci è regalato. Comunque devo dire a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, a parte, io invito tutti a fare una fanzine, però che magari potrebbe essere anche una cosa più difficile o una cosa un po' più sconosciuta, diciamo. Però ragazzi, suonate, dateci dentro, perché è una buona occasione, innanzitutto per divertirsi, per conoscersi, per girare, perché si sa mai che un giorno possiate andare in tour, non parlo di tour mondiali europei, però anche girarsi l'Italia a conoscere gente, posti e situazioni nuove è un'ottima occasione questa. Perché altrimenti tutti i pazzi fanzine non esiste più. Se no, infatti, se non suonate io cosa scrivo? Non so. E noi che passiamo per radio, cioè poi chiudiamo. Va bene. Allora, siamo arrivati più o meno a chiusura della trasmissione. Vogliamo ricordare appunto come mettersi in contatto con tutti i pazzi. Sì, ok. Io appunto volevo ricordare che la fanzine è tuttora esistente, che da gennaio 2017 inizierà la stesura del numero nuovo, quindi avete tutto il tempo, avete tutto l'inverno, la primavera per contattarmi, anche una buona parte dell'estate. Mi potete trovare sulla pagina di Facebook al nome di Tutti Pazzi Roberto, oppure contattarmi a questa email: tuttipazziextreme@libero.it. Perfetto, allora noi poi quando pubblicheremo il podcast andremo a ricordare appunto, a riportare queste coordinate anche nel podcast. E Roberto, io ti ringrazio veramente tanto di esserci venuto. Grazie a te, grazie ai ragazzi di Radio Onda Rossa che mi hanno ospitato questa sera, grazie alla mia compagna che è qui presente, che si è assorbita, che è rimasta silente e paziente, il programma. Grazie a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie a tutti ragazzi, e volevo dirvi una cosa: lo spirito continua e noi vi salutiamo così. Yeah. Allora andiamo a chiudere così la puntata di questa sera. Ricordando l'appuntamento di questo sabato 31 dicembre alle ore 10 sotto al carcere di Rebibbia. Eh sì, per il consueto presidio appunto sotto il carcere. Nelle brutali perquisizioni di novembre anche le biblioteche del carcere sono state notevolmente danneggiate. Questa situazione si somma al blocco di libri, stampe e riviste in 41 bis imposto da una circolare del DAP e quindi portiamo solidarietà alle persone detenute, rompiamo il blocco. Porta un libro, compra una scarceranda e dici a chi vuoi inviarla in carcere. E quindi dalle ore 10 presidio sonoro con appuntamento a via Raffaele Maglietti, angolo via Bartolo Longo. Poi a seguire alle ore 13 con una lenticchiata propiziatoria. E poi dalle 13.30 alla sezione maschile. E noi andiamo a chiudere così. Ringraziamo ancora Roberto che ci è passato a trovare. L'appuntamento è per martedì prossimo dalle ore 21 con una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. E noi per ora vi lasciamo all'automatico. Grazie.